con Livia Antonelli, co-direttrice della seconda edizione di Castellinaria, Festival di Teatro Pop a Castello Cantelmo, ad Alvito, provincia di Frosinone, dal 3 al 10 agosto 2019. Livia, ben trovata. Grazie, buonasera. Buonasera a tutti. Per chi non lo conoscesse, raccontiamo cos'è. Allora, Castellinaria è un festival di teatro che nasce l'anno scorso da un'idea appunto della nostra compagnia teatrale romana, che è la compagnia Habitas. C'è un legame che ci unisce, che appunto personalmente io sono originaria di quelle terre, della Valle di Comino, e è nata appunto l'idea di portare del teatro contemporaneo e giovane, under 35, in una terra a me molto cara, e la mia compagnia mi ha sostenuta in questo progetto e questa ormai è la seconda edizione. Come si caratterizza questa seconda edizione? Allora, la seconda edizione ha un frame che è Segnali di Fumo. Oltre appunto alla dicitura Festival di Teatro Pop, perché il nostro intento è di portare appunto drammaturgia contemporanea in provincia, però per fare un teatro che sia pop nel senso di per tutti. Quindi cercare di portare un certo tipo di teatro però accessibile. Quest'anno appunto Segnali di Fumo vorremmo cercare nel nostro piccolo, arroccati sopra il castello, nella provincia appunto del Basso Lazio, di lanciare appunto un segnale a tutti quanti. Questo è il concetto di questo frame di quest'anno. Quanti gli spettacoli? Allora, gli spettacoli saranno ben 6 spettacoli che abbiamo scelto tramite una call. Ci sono arrivate tantissime richieste, più di 200, abbiamo scelto 6, anche quest'anno da tutta Italia, e più di 3, 4 e 5 ci saranno, avremo l'onore di ospitare la prima serata, ci sarà Francesco Montanari con uno spettacolo divertente, abbiamo questo onore di ospitarlo. La seconda serata, questa è un'altra grande novità di questa edizione, siamo riusciti grazie a una collaborazione, a una partnership con Fabula Mundi, Playwriting Europe, siamo riusciti a portare un regista tedesco. Ecco, anche qua questo è un grande segnale di fumo, perché portare appunto nel teatro internazionale, in un piccolo paese come Alvito, per noi è una grande conquista. E il terzo spettacolo, il 5 agosto, è come l'anno scorso, noi dedichiamo sempre una serata a portare un artista locale in scena. Quest'anno ci sembrava doveroso portare Ivano Capocciama, che è stato l'anno scorso il co-direttore artistico di Castellinaria, quest'anno se l'è tirato fuori per motivi personali e di organizzazione, e abbiamo avuto appunto il piacere, porteremo il suo spettacolo, che sarà un debutto. Avremo due debutti addirittura in Castellinaria, quello di Ivano Capocciama e della compagnia Doer Teatro di Trento. Diciamo che noi cerchiamo sempre di osare con i pro e i contro di questa scelta. Sono previsti anche incontri con le compagnie e gli autori? Assolutamente sì, noi siamo appunto sempre, ci saranno degli incontri appunto coordinati dai nostri media partner, che sono appunto sempre il Teatron, che sono un giovane portale romano, la rivista Le Nottole, che è una rivista neonata appunto in seno all'Università La Sapienza di Roma, abbiamo scene contemporanee, con loro sarà possibile comunque incontrare gli artisti, ma quest'anno un'altra grande novità a cui tengo assolutamente di parlare è questa novità di Via Perinaria. Diciamo che appunto Castellinaria non sarà più un festival con uno spettacolo a sera di giovani compagnie del territorio nazionale, abbiamo fatto una piccola rassegna nella rassegna che si chiama Perinaria, perché in orario aperitivo, che sarà dedicata a delle manifestazioni da parte delle associazioni culturali della zona, perché per noi il nostro obiettivo primario è quello appunto non di portare noi appunto il teatro, il grande teatro, quello che noi consideriamo il grande teatro in provincia, ma anche di far parlare la provincia, perché stando in quel territorio e cercando di lavorare con il territorio escono fuori delle grandissime potenzialità. Quindi quest'anno la programmazione partirà dalle 7:30 con questa preliminare, questi incontri, 9:30 avremo lo spettacolo, 11:30 avremo anche quest'anno i concerti a seguire lo spettacolo e poi ci sarà il DJ set alcune sere. Questo è il programma, poi abbiamo appunto ci saranno anche altri incontri pomeridiani con Cresco, abbiamo ricollaborato insieme, ci saranno i laboratori anche quest'anno, sono dei laboratori per noi molto importanti, siamo riusciti a portare Renata Molinari, la prima dramaturg italiana ad Alvito, che farà un laboratorio di scrittura, e la compagnia teatrale Dynamis che fa un lavoro di ricerca sul corpo, sulla performance, diciamo, aperta a tutti, e che è incredibile, credo una delle migliori compagnie sicuramente di Roma, che fa un lavoro appunto pedagogico. Sono due laboratori molto forti e siamo molto contenti di questo. In chiusura ci lasci i riferimenti web per la programmazione? Assolutamente, assolutamente. Ci potete trovare su Facebook come Castellina Aria Festival di Teatro Pop, su Instagram la stessa dicitura, e abbiamo anche un sito che sarà rinnovato a brevissimo, a giorni, che è www.compagniaapitas.it. Questi sono i nostri contatti, potete scriverci ad apitas51@gmail.com, saremo felici di rispondervi. Seconda edizione di Castellinaria, Festival di Teatro Pop, al Castello Cantelmo di Alvito, provincia di Frosinone, dal 3 al 10 agosto 2019. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice Livia Antonelli. Un abbraccio, grazie, in bocca al lupo, e a presto. Grazie, grazie mille, buona serata.